Ecco le parole e le espressioni nuove. Come al solito, ascolti l'italiano, l'inglese, di nuovo l'italiano e ripeta. Quanto costano? How much are they? Quanto costano? Vengono? They cost. Vengono? 130. 130. 130. Euro. Euros. Euro. Uno sconto. A discount. Uno sconto. Le faccio uno sconto. I'll give you a discount. Le faccio uno sconto. 100. 100. 100. Grosso. Big. Grosso. Once again, review that new language and when you're quite confident with it, continue with the scene. Nel negozio. While Sarah's choosing her sunglasses, the shop door opens and a boy comes in to try to sell her some flowers. As you'll hear, he's quickly sent away and Sarah continues to concentrate on sunglasses, for which Giovanni offers a discount. Ascolti.